ricordi più belli non sono i nostri ricordi più belli, e tutte le nostre cene, le foto coi monumenti, certificati che produciamo per farvi contenti. Poi nelle nostre caverne facciamo i nostri disegni. Sapete tutto di noi, ma non potete venire a vederli. Un nascondiglio stupendo, fuori c'è un tempo tremendo, ma il fatto è che domani parti. Volevi studiare per sé, più niente, l'aria di mare è un lavoro che facesse bene alla gente. Tutti i miei discorsi aperti, tutti i tuoi contatti persi, treni passati che rincorriamo invece che darci per vinti. Poi nelle nostre caverne facciamo i nostri disegni. Sapete tutto di noi, ma non volete venire a vederli. Un passatempo stupendo, fuori c'è un mondo tremendo, ma il fatto è che domani parti, domani parti. Di che cos'altro potrei parlarti? Domani parti, domani parti, domani parti. Domani parti, domani parti, di che cos'altro potrei parlarti? Domani parti, domani parti, domani parti. Passati che rincorriamo invece che darci per via.